cosa c'è, non lo so. So solo che qualcuno prende per il culo. Dicono che vivo in mezzo alle vacche, quelle che fanno latte, che tu compri nei cartoni, le sai fare le addizioni. Vivo in mezzo alle vacche, quelle che fanno latte, mica come quelle auto che fanno soltanto smog nella tua città di merda. Lontano dagli stradoni, dai tabacchini e dai panettieri, ma sempre, sempre, comunque fiero di vivere. Vivo in mezzo alle vacche, non in quella tua città, quella tua città di merda. Cosa c'è? Non lo so. So solo che qualcuno prende per il culo. Dicono che vivo in mezzo alle vacche, quelle che fanno latte, che tu compri nei cartoni, le sai fare le addizioni. Vivo in mezzo alle vacche, quelle che fanno latte, mica come quelle auto che fanno soltanto smog nella tua città di merda. Meccanico, sento ormai meccanico.